Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Hanno arrestato i boss Lo Piccolo. E allora penso, quasi quasi passo un attimo dalla questura di Palermo per dare un'occhiata. In un flash entro in una cartoleria, compro due grandi fogli di tipo A3, un rotolo di scotch e un pennarello nero. Unisco i due fogli e scrivo grande e in stampatello: grazie. Mi chiamo Pietro, vivo a Palermo e amo la mia terra. Voi adesso non ve lo ricorderete, ma è molto probabile che la sera del 5 di novembre del 2007, tornati a casa mentre cenevate, davanti al telegiornale abbiate visto questa scena. Abbiate visto una coda di auto che rientra alla questura di Palermo, con tutti i poliziotti che esultano, alcuni di loro col volto coperto, e anche se non stavate ascoltando, come spesso capita guardando il telegiornale della sera, avrete capito che si riferiva alla cattura di qualche boss molto importante. E quella cosa è una cosa che accade, l'abbiamo vista diverse volte, soprattutto con immagini che arrivano dalla Sicilia, da Palermo in particolar modo. I poliziotti che entrano festeggiano. Intorno a loro, oltre ai cronisti, ai giornalisti che stanno riprendendo e fotografando, spesso ci sono delle persone che applaudono e salutano e li ringraziano. La storia di oggi arriva esattamente da quella sera là, dalla sera del 5 di novembre del 2007, quando Pietro, che oggi ci racconterà meglio la sua storia, si è trovato a passare davanti alla procura e ha detto: sai cosa? Io a queste persone voglio dire grazie. 349-238-6666, sono le 16:10, Radio 24, voi siete qui. Se avete voglia di dire grazie a qualche personaggio pubblico, per qualsiasi motivo, servitore dello Stato, personaggio pubblico che in qualche modo vi è stato utile, oggi è la puntata per farlo. Ripeto, 349-238-6666. Io direi, bando qualsiasi ironia e cinismo, tanto lo sappiamo che l'ironia sui ringraziamenti è facile, decidiamo che siete i più ironici della Terra e poi andiamo avanti. Se avete veramente, sinceramente voglia di ringraziare qualcuno, 349-238-6666 o il profilo Facebook, voi siete qui Radio 24, dove Rita già scrive: voglio ringraziare Milena Gabanelli, Francesco dice: voglio ringraziare Papa Francesco, Nicole Minetti niente, i nostri politici niente, abbiamo già dato, vorrei ringraziare Ermanno Olmi, dice Simona, per tutti possiamo fare nella nostra vita un'opera d'arte, per aver detto questa frase, grazie. 349-238-6666. Ritorniamo a quella sera là, è il 5 di novembre del 2007 e vengono arrestati due capi mafiosi molto importanti. Più tardi, nella seconda parte, è una cosa che non facciamo mai, però visto che ci mettiamo le mani non ci tiriamo indietro, ci andiamo fino in fondo, abbiamo chiesto a Raffaella Calandra, che è l'esperta assoluta di queste cose qui in redazione, di indicarci una persona che stesse da quella parte lì, un magistrato che abbia vissuto la sua parte della sua vita a combattere la mafia e a catturare questi personaggi. Abbiamo trovato un magistrato che è stato procuratore del pool antimafia di Palermo, che è Alfonso Sabella, e più tardi, dopo la borsa, sarà con noi. Adesso però ci concentriamo, torniamo a quel giorno, 5 novembre 2007. Questa è la storia di Pietro. Avevo finito di lavorare, dovevo andare a casa per cucinarmi la cena. Ed ecco la notizia: hanno arrestato i boss Lo Piccolo. Penso che quasi quasi passo un attimo dalla questura di Palermo per dare un'occhiata. Da tempo pensavo agli investigatori che sacrificano la vita, gli affetti e la normalità per pedinare e scovare questi delinquenti. Questa gente che fa gli appostamenti, mette le microspie, si sacrifica notti, giorni, gli appostamenti. Dico, io mi sento grato a queste persone che pian piano hanno arrestato tutti i grandi latitanti, storici. Ne è rimasto solo uno, poverino, che prima o poi lo prenderanno pure. Giunto in questura, in un flash, entro in una cartoleria. Compro due grandi fogli di tipo A3. Un rotolo di scotch e un pennarello nero. Unisco i due fogli e scrivo grande e in stampatello: grazie. Devo farlo vedere agli agenti e ai catturati. Devo trovare dove attaccarlo. Mi sentivo di voler ringraziare queste persone che rischiano la vita per il bene di tutti. Poi ho comprato due fogli A3, li ho incollati, ho scritto quel grazie e volevo attaccarlo da qualche parte. Poi nel frattempo sono arrivati gli agenti con i mafiosi e ho visto che qualche telecamera cominciava pure a inquadrare, a fotografare, qualche fotografo. L'ho preso in mano questo foglio e l'ho mostrato agli agenti che erano dentro la macchina. Però, ripeto, non era assolutamente intenzionale il mettermi lì davanti alla telecamera con quella scritta. Parlo con un uomo in divisa che mi chiede di aspettare il responsabile. Nel frattempo si vedono i flash delle prime foto dei giornalisti. Eccoli, arrivano. Tutte le persone presenti si accalcano oltre le transenne. Allora io alzo la scritta per farla vedere a più persone possibile. Il piccolo corteo entra. Io faccio per andare via, ma non appena mi giro, vedo gente che mi fotografa e mi mette dei microfoni sotto il naso facendomi delle domande. Come se avessi fatto qualcosa di speciale. Il risultato è che la mia foto va su tutti i giornali, anche esteri. Non lo immaginavo, certo, quando ho comprato carta e pennarello. Sono diventato il tramite di uno splendido messaggio e ne sono felice. La tomba di Giuseppe Petrosino è nel Queens, a New York. Lui però è morto ammazzato per le vie di Palermo, sparato alle spalle a 49 anni, mentre cercava di combattere la mafia. La storia del primo poliziotto antimafia, Giuseppe Petrosino, detto Joe, comincia in provincia di Salerno, a Padula, dove nasce e vive per 13 anni, fino a quando la sua famiglia, nel 1873, emigra in America in cerca della fortuna che in Italia non c'è. Suo padre fa il sarto e riesce a fare studiare sia lui che i suoi tre fratelli. I Petrosino vivono a Little Italy, zona malfamata di Manhattan. E Giuseppe, che ormai tutti chiamano Joseph, anzi Joe, lavora come lustrascarpe e strillone, quello che vende i giornali per strada urlando i titoli. Studia l'inglese alla sera e prende la cittadinanza americana. Inizia a fare il netturbino per il comune di New York e diventa caposquadra. È uno che non si tira mai indietro, Petrosino. In quegli anni l'arrivo degli italiani porta un sacco di problemi a New York, come ad esempio la malavita organizzata. I poliziotti presenti, ebrei, irlandesi, non ci capiscono niente, sia per problemi linguistici sia culturali. Joe sa bene l'italiano, conosce la propria gente e soprattutto non ha paura. Quindi qualcuno dell'amministrazione comunale gli chiede di spostarsi dalla raccolta dei rifiuti alla polizia, con il ruolo di informatore. Deve lavorare sotto copertura e anticipare le mosse di un'organizzazione potente che nessuno meglio degli italiani conosce, la mafia. Joe non raggiungeva il 1,60 m, era tarchiato e tosto. Era grintoso, non temeva il fatto che i colleghi non avessero fiducia in lui e che i suoi connazionali lo odiassero. Si sapeva travestire, cambiava accenti, era uno dei primi infiltrati della storia della polizia moderna. Non aveva studiato, ma sapeva come fare. Uno dei suoi maggiori estimatori, dei suoi maggiori tifosi, era l'assessore alla polizia della città di New York. Si chiamava Theodore Roosevelt, destinato a diventare più avanti presidente degli Stati Uniti. Anche grazie al suo appoggio, nel 1895 Petrosino viene promosso sergente e non deve più occuparsi di ordine pubblico nelle strade. Può dedicarsi alla conduzione delle indagini. I mafiosi si trovano, così, davanti a un nemico che parla la loro stessa lingua, che conosce i loro metodi, che può entrare nei loro ambienti. Joe Petrosino, oltre a fare il suo mestiere, è anche motivato dalla rabbia verso quei delinquenti. Un rancore verso quella gentaglia che rende tutti gli italiani ladri e assassini agli occhi della gente. Una storia che si è ripetuta mille volte, cambiando solo i paesi d'origine e le città d'arrivo. Nel 1905 Joe diventa tenente e gli viene affidata l'organizzazione di una squadra di agenti italiani, l'Italian Squad, per combattere la Mano Nera, che è un'organizzazione mafiosa particolarmente efferata e con forti legami con la Sicilia. Tra le tante operazioni riuscite c'è la cattura dei gangster che ricattavano il cantante d'opera Enrico Caruso mentre era in tournée a Manhattan. L'anno prima Joe aveva anche scoperto che l'organizzazione anarchica responsabile della morte del re d'Italia Umberto I, nella quale si era infiltrato, aveva l'intenzione di assassinare il presidente americano William McKinley durante una sua visita a Buffalo. Avvisa la FBI, ma non gli viene data retta. Il presidente viene ucciso, come aveva detto lui. Joe nel frattempo si era sposato e aveva avuto una figlia. Era un perfetto americano, nato altrove ed emigrato come tutti gli altri. E si era conquistato stima e rispetto con lavoro e coraggio. Era molto amato. metteva la sua vita in pericolo per la giustizia e la gente lo apprezzava, soprattutto quando era in missione, sotto copertura. Quando indossava i panni del poliziotto, invece, non correva tanti pericoli, perché a New York c'era la regola non scritta che i poliziotti non si potevano toccare. Nel 1909, Joe Petrosino torna per la prima volta in Italia, dopo quasi 40 anni, ad accompiere una missione in Sicilia, seguendo la pista mafiosa della Mano Nera. Joe non è amato dai mafiosi, e in Italia non esistono leggi non scritte a tutela dei poliziotti. I capobastoni non aspettano altro che preparargli il benvenuto. Arrivato a Palermo, Joe Petrosino gira le spalle alla persona sbagliata e viene assassinato da un killer che nessuno ha mai denunciato, davanti al cancello di Villa Garibaldi, a pochi passi dal Caffè Oreto. Il console americano a Palermo telegrafa al suo governo: Petrosino ucciso a revolverate nel centro della città, questa sera. Assassini sconosciuti. Muore un martire. Il governo mette una grande taglia sull'omicida, ma nessuno vuole rischiare la pelle e le bocche rimangono chiuse. Joe viene sepolto a New York. Al suo funerale, in parata per le strade di Manhattan, assistono 250.000 persone, il maggior numero di partecipanti a una cerimonia funebre mai raggiunto nella storia fino a quel giorno. Nel Greenwich Village dall'87 una piazza è intitolata a suo nome e Joe Petrosino è ricordato al fianco di gente come Fiorello La Guardia, Joe Di Maggio e Rudolph Giuliani o Martin Scorsese. Well, there were days when you thought you would just go under, and the weekends that you never understood, when you flew from the bar only 17, you didn't bleed and no one ever thought you would, and there were straights and lines and every sort of option. Stay away from broken mirrors and your friends. Come see the strain of a real and try. Come meet the criminals of this Napoleon ride. Continuano ad arrivare nel frattempo i messaggi di ringraziamento, perché oggi vi chiediamo, grazie alla storia di Pietro, attraverso la storia di Pietro come facciamo tutti i giorni, vi chiediamo se c'è una persona, un personaggio pubblico a cui avete voglia semplicemente di dire grazie. Non dovete nemmeno spiegarci i motivi, semplicemente se c'è e chi è. Per cui ad esempio Lucilla ci scrive a Nanni Moretti, che senza saperlo sa tutto di me, grazie. Maria Donata invece scrive a Falcone e Borsellino, ne parlavamo prima, siamo a il giorno dopo la commemorazione di quell'evento, quello che è successo, insomma, lo sappiamo tutti. E Laura scrive: vorrei dire grazie a Roberto Saviano. Rimaniamo in questo ambiente, di fatto, perché la storia di Pietro parla di mafia, parla soprattutto di antimafia e parla di gratitudine. Pronto Pietro, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, bene. Dove ti trovi adesso? Me lo puoi dire? Adesso sì, qui a Palermo, in città. Ok, tu sei palermitano, Pietro? No, vengo da Trapani, okay. E lavoro qui a Palermo. Insomma, sei siciliano però? Sì. Scusami, per un ignorante del nord, Trapani-Palermo quanto ci metti? Quanti chilometri sono? 100 chilometri. Ok, quindi vabbè, in macchina ci metti 1 ora e mezza. Sì, anche meno. Senti, torniamo a quei giorni invece. Mi ricordi esattamente la data, il periodo? Io ho recuperato prima l'articolo, però se me lo dici tu ci risaliamo con più precisione. La data ora non la ricordo. Sì, è stato tutto un succedersi di fatti casuali, mi hanno portato lì, perché ho avuto la notizia dell'arresto di queste due persone. Che erano, mi ricordi, era Salvatore Lo Piccolo, giusto? Sì, è il figlio. È il figlio, sì. Ok. Che erano latitanti dal 1983, leggo qua, lui, il padre, insomma, diversi anni. Sì, e quindi sì, questo caso che mi ha portato lì, mi era giunta all'orecchio la notizia dell'arresto. Sì. Dovevo comprare fare la spesa e andare a pranzare a casa. Sì. Poi mi sono trovato per caso, senza volerlo, a passare lì dalla questura, ho visto già l'assemblamento, dicevo quasi quasi da un'occhiata. Certo. Già da tempo meditavo sul il sentirmi riconoscente verso tutte quelle persone che rischiano la vita, che stanno ore, giorni, mesi, anni a investigare per assicurare la giustizia a queste persone. E quindi sì, mi sentivo di dire grazie dentro di me. Arrivato lì, mi è venuto così questo flash. Ho comprato 2 fogli A3 dello scotch, un pennarello, e ho scritto grazie, ma con l'intenzione di attaccarlo da qualche parte per permettere agli agenti che passavano, a cui io, ripeto, sono molto grato. Certo, farlo vedere, insomma, mostrarlo. Esatto, di farlo, esatto. E di fatto avevo chiesto lì a dei poliziotti, dico, dove lo posso attaccare? Già con lo scotch pronto. Sì. E loro però volevano chiederlo ai loro superiori gerarchici, certo. Giustamente. Avevo questo foglio in mano e cominciavo a vedere qualche giornalista o qualche foto da lontano, perché non ero vicino ai giornalisti. Mm-hmm. Che scattava foto. Poi, eccole, le auto arrivano, allora io che faccio? Mi metto lì questo foglio in mano per fare vedere agli agenti in macchina il tuo cartello, certo. Tra l'altro, esatto. Questa è una scena che noi un pochettino conosciamo, infatti ci aveva incuriosito il tuo racconto, perché questa è una scena abbastanza comune, no? Cioè noi alla televisione, quando avvengono avvenimenti così importanti, davanti al TG vediamo queste auto che arrivano, spesso i poliziotti hanno il volto coperto per motivi di sicurezza, esatto. E sono fuori dall'automobile, no? Esultano e la gente, esatto, li festeggia, quindi il fatto di parlare con uno che era lì ed era di fronte alle automobili, per capire una cosa, Pietro, è una domanda banalissima ovviamente, ma che cosa porta una persona che è al lavoro, sta tornando a casa, a pranzo dicevi, giusto, era l'ora di pranzo, sì, più sì, o meno, esatto. A prendere una parte del suo tempo che sembra poco ma non è così, nel senso che poi in realtà tutti noi siamo molto gelosi dei minuti, dei secondi che abbiamo per noi, quindi che cosa porta una persona a andare in un negozio, pigliare uno scotch, pigliare un pennarello e semplicemente per scrivere grazie a delle persone che non conoscerà mai e che probabilmente non incontrerà mai più nella sua vita? Ma guarda, con due parole semplicissime che, se non mi sbaglio, sono di un sacerdote, padre Pino Puglisi, che sicuramente alcuni di voi, tutti, non so, avranno conosciuto, ucciso dalla mafia. Se qualcuno fa qualcosa. Noi viviamo in una nazione che, da un miracolo italiano di alcuni anni fa, sono passati a una stasi, a un curarsi l'orticello di casa, fregandosene di chi sta accanto, nella villetta accanto, e questo ci ha portato a una realtà italiana oggi, diciamo che particolare, diciamola così. Quindi, se qualcuno fa qualcosa. Pietro, io ti ringrazio per diversi motivi. Il primo è perché appunto ci hai dato il destro per parlare di una cosa di cui abitualmente non parliamo. Il secondo perché grazie alla tua storia, nella seconda parte, tra poco dopo la borsa, sentiremo un uomo che ha dedicato la vita alla lotta alla mafia, che è Alfonso Sabella, che è stato procuratore a Palermo proprio in quel periodo. Grazie ancora di tutto e buona giornata. Grazie a voi. Ciao Pietro. Ciao, grazie. Voi siete qui. Credo che questo sia il primo vero caso in cui la foto che pubblichiamo sul nostro sito, alla pagina di Voi siete qui, radio24.it, dicevo, la foto è esattamente la storia. Cioè, questa foto qui è la storia che avete sentito prima, è condensata in un'immagine. C'è lui, c'è Pietro con un giubbotto marrone, e le mani alzate e questo cartello. E se si guarda bene si vede proprio che sono due fogli A3 attaccati con dello scotch e una scritta semplice, grazie in nero. Alle sue spalle delle case del quartiere di Palermo, l'auto della polizia, gente, fotografi. E mi ricordo di aver letto sulla foto originale che era stata pubblicata, la didascalia diceva: un uomo solleva un cartello con la scritta grazie davanti alla questura di Palermo. Quell'uomo si chiama Pietro. Mafia, sostantivo femminile. Organizzazione criminale suddivisa in più associazioni, rette dalla legge dell'omertà e della segretezza, che esercitano il controllo di attività economiche illecite del sottogoverno. Diffusa originariamente in Sicilia. Estensivo, consorteria. Familiare, altezzosa ostentazione di eleganza. Etimo, voce siciliana, presente in altri dialetti meridionali nella variante mafia, col significato primitivo di baldanza, spocchia, degenerato in quello attuale nel secolo XIX. Arrivano tantissimi messaggi di gratitudine che sono indirizzati alle personaggi più disparati. Si va da Falcone Borsellino, ovviamente, fino a Jane Austen, grazie a Don Gallo, grazie a Beppe Grillo, grazie ad Antonio Conte, ringrazio tutta la polizia, Roberto Benigni, eccetera, eccetera. 349-238-6666. In questa seconda parte noi vogliamo sentire qualcuno, come facciamo ogni tanto, qualcuno che sta dall'altra parte della storia che avete sentito. La storia è la storia di Pietro, che appunto va a ringraziare questi poliziotti che hanno catturato due capi mafiosi, e noi vorremmo capire, non siamo del mestiere, insomma, ci sono altri che fanno questo lavoro, però ci piacerebbe capire, come di solito cerchiamo di fare, che storia c'è dietro alle persone. Ed è per questo che abbiamo trovato al telefono con noi un procuratore del pool antimafia di Palermo, che ha lavorato all'epoca con Giancarlo Caselli, che è Alfonso Sabella. Dottor Sabella, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere qui. Grazie a voi per l'opportunità. Consideri di parlare come con un imbecille o un bambino di 6 anni che non sa nulla. Prima ho detto procura al posto di questura, questo per farle capire il livello. Io però vorrei chiacchierare con lei. Innanzitutto, che cosa fa adesso? Io adesso sono al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, mi occupo sempre più o meno delle stesse cose, sia pur sotto un'altra prospettiva. Che mi occupo delle strutture delle carceri in questo momento, che sono un problema sicuramente. Che sono un problema, insomma, quello sì, si sa in maniera abbastanza netta. Quanto è stato alla Procura Antimafia di Palermo? Io sono stato alla Procura Antimafia un po' più di 6 anni, nel periodo proprio subito dopo le stragi, fino al 1999. Mi perdoni, una questione privata, ma quanti anni aveva? Sono arrivato a Palermo, avevo una trentina d'anni adesso, 30-31 anni. Insomma, quindi era un giovane uomo di 30 anni che si trova a vivere una situazione molto particolare, insomma, che non tutti i giovani uomini si trovano a vivere, no? Ero quello che si diceva all'epoca un giudice ragazzino. Ah, ok. Proprio... avevo 29 anni, effettivamente, quando sono arrivato alla Procura di Palermo. Ok. Però è stata un'esperienza assolutamente unica, perché è stato un momento in cui tutti quelli che eravamo lì eravamo convinti, eravamo ovviamente avendo portato, mi spiace anche l'espressione un po' brutta, ma sulle nostre spalle i cadaveri di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e prima ancora di Rosario Livatino, che era più o meno poco, aveva qualche anno più di noi. Sostanzialmente era un momento in cui sentivamo, come quasi per citare la frase dell'ammiraglio Nelson, che tutto il paese pretendeva che noi facessimo il nostro dovere, e credo che in quegli anni l'abbiamo fatto anche piuttosto bene, insomma, ovviamente con enormi sacrifici personali. Questo esattamente, che cosa porta un giovane uomo di neanche 30 anni a diventare un servitore dello Stato? Anzi, guarda, gliela faccio in un altro modo questa domanda. Diventare un servitore dello Stato, e credo che mai come in casi come questi il termine sia appropriato, è una vocazione o lo vogliamo liberare dalla retorica, è semplicemente un mestiere come gli altri? Ma io direi che è un mestiere come gli altri, non c'è una vocazione, le dico subito, io anche molto, in maniera molto cinica, ho scelto di fare il magistrato perché volevo accelerare i tempi per diventare avvocato cassazionista, perché sono figlio di due avvocati, avevo scelto di fare il magistrato ma semplicemente come un momento di passaggio, sì, per poter iscrivermi prima del tempo all'albo dei cassazionisti. In realtà nel momento in cui arrivo a Palermo da uditore giudiziario, quindi facevo ancora il tirocinio, ho avuto modo di conoscere Falcone e Paolo Borsellino, quello è un momento che mi ha cambiato la vita. A quel punto ho capito che bisognava fare qualcosa di diverso e sono rimasto a fare il magistrato, anche a guadagnare di meno rispetto a fare l'avvocato. Lei tuttora è magistrato, giusto? Cioè continua a fare magistrato, credo che morirò magistrato. C'era tra di voi, quanti eravate? Quelli del famoso pool antimafia, quante persone eravate? Allora, le posso dire che eravamo tutti, perché eravamo tutti, all'epoca eravamo 44 sostituti, 3 aggiunti e un procuratore, ma facevamo parte tutti del pool antimafia, perché in realtà il vero pool era costituito da 12 persone fisse, sì, come il DDA, e un paio di applicati. All'inizio ero giovanissimo, ero applicato, non avevo ancora l'anzianità per entrare formalmente in DDA, però nella direzione distrettuale antimafia, che proprio, però in realtà la scelta del procuratore Caselli fu quella di coinvolgere tutto l'ufficio, perché effettivamente era una lotta tra virgolette globale, la mafia si combatteva anche cercando di affermare la legalità in tante piccole cose, e credo che siano stati degli anni veramente unici e irripetibili. Come trascorrevate il tempo al di fuori del lavoro? Vi frequentavate, stavate insieme, c'era paura ad esempio? Io quando mi fanno questa domanda se io avevo paura in quegli anni, la prima istintivamente dico di no, poi ci rifletto sotto e mi rendo conto che invece la paura ce l'avevo, e come, solo che ormai l'avevo metabolizzata, cioè faceva parte un po' del mio modo di vivere, ormai era come una cosa normale, una sensazione che tu hai quando hai fame o quando hai sonno o hai sete, solo sostanzialmente non ci fai più caso, non la ricordi più. La mia vita fuori dal lavoro diciamo che non esisteva, nel senso che è stato un all'epoca ho dovuto spedire mia moglie e mia figlia a Milano, perché ovviamente non potevo pensare che potessero correre gli stessi rischi che correvo io a vivere in mezzo di sabbia alla finestra o con i soldati sotto casa. Sempre scortati, ovviamente, questa è una domanda retorica. Chi? Scortati chi? Io? Voi del pubblico. Io sono stato scortato per anni, no, mia moglie e mia figlia, grazie a Dio. No, parlavo di... risparmiato questa tragedia, insomma, perché... Senta, le faccio la domanda delle domande. Qual è la cosa più complicata nel catturare un latitante mafioso? La cosa contro cui bisogna lottare, che rende tutto molto più difficile? Ma quello è il muro dell'omertà, ovviamente, perché quella è la caratteristica. Quindi sostanzialmente cercare di... Io ho catturato tantissimi latitanti, anzi era la mia specialità, sono probabilmente il magistrato che ha catturato più latitanti, almeno in quel periodo a Palermo. Quello che era la cosa più difficile era quella, appunto, di riuscire a mimetizzarsi tra gli altri, cioè fare in modo che polizia, carabinieri, DIA, tutti, diciamo, appartenenti alle forze dell'ordine che lavorano sul territorio, non farsi notare, e se ne siamo inventate di tutti. C'erano poliziotti che facevano i venditori di cucine a gas o venditori di angurie, oppure si fingevano turisti smarriti. Ne abbiamo fatte di tutte. C'era una dose di creatività, nemmeno dire, ma ecco, l'arma vincente in quel momento, forse quello che abbiamo aggiunto in più alle indagini tradizionali, è stato un po' di fantasia. Ce ne abbiamo messa tanto, perché proprio dovevamo riuscire ad aggirare l'ostacolo del territorio. Chiaro. Perché il latitante nel suo territorio è il suo territorio, non il territorio dello Stato. Infatti tu lavori in territorio nemico. Prima guardavo appunto dei dati riguardo all'arresto di cui parlava il racconto di Salvatore Lopiccolo e del figlio, erano di fatto vicino a Cinisi, insomma, erano lì, erano vicino a Palermo. Il latitante non lascia mai il suo territorio, o almeno non lo lascia mai a lungo. La presenza è potenza, diceva Leo Luca Bagarella, che era all'epoca il capo di Cosa Nostra, quando l'abbiamo arrestato il 24 di giugno del 95. Ma quando certe volte sentivamo delle voci di latitanti che sarebbero stati in Sud America, in altre parti non del era vero. Mondo, insomma, è chiaro che noi non ci facciamo nemmeno caso, perché per noi il latitante può essere anche per determinati periodi, anche a breve distanza dal suo territorio, ma non lo può lasciare. Se lo lascia, perde potenza, perde credibilità, perde tutto. Se volete saperne di più, leggete Il cacciatore di mafiosi, che Alfonso Sabella ha scritto qualche anno fa. La ringrazio moltissimo per la chiacchierata. Grazie a lei. A presto, arrivederci. Grazie ancora ad Alfonso Sabella, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, grazie a Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea. Soprattutto grazie a Pietro per averci dato questa possibilità oggi, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.